soglia, non ho più neanche una voglia, quasi quasi piangerò. Che mi ha lasciato anche la donna, quella con la minigonna, credo si chiamasse Gianna, mi ha lasciato un'ora fa. Sono scontroso, che non vedo mai nessuno, che sto sempre chiuso in casa, che non sono spiritoso, che ho un cervello sotto al mare, dovrei farmi visitare, dovrei andare dal dottore, mi dovrei ricoverare. Seguo e poi mi muovo come un matto ed io le ho scritto una canzone in sol maggiore. Io che sono cantautore, lei che dice va a cagare, non ti voglio più vedere, non ti pare più trovare, manco fossi un animale, qua mi tocca di scappare. Prende la mira, fa la faccia molto seria, io le dico amore scusa, non farai mica l'offesa, e non mi prende per un pelo, resto appiccicato ai muri, poi mi manda a fare in culo ed io rimango chiuso fuori.